A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Non era mai successo da quando esistono i tre punti per vittorie, cioè dalla stagione 1994-95, che la capolista avesse soltanto, o le capoviste avessero soltanto 10 punti dopo 5 partite. È il punteggio dunque più basso di sempre, segno di un equilibrio inedito nel nostro campionato. Lo scorso anno, per esempio, Inter e Juventus erano ancora imbattute a questo punto iniziale della stagione, mentre quest'anno non c'è più una sola squadra che non abbia già perso. È una delle tante curiosità statistiche segnalatemi da Franco Piantanida, che collabora con me alla realizzazione di questo programma, ma ce ne sono altre. Non so, pensate che Antonioli fino a mercoledì sera era l'unico portiere imbattuto del campionato, grosso modo alla metà del primo tempo della partita di Catania, e da allora in una partita e mezzo, poco più, ha incassato 6 gol. Oppure che il Cagliari aveva fino a ieri la miglior difesa con un solo gol al passivo e ne ha presi 4 in una sera sul campo della Juventus. Come vedremo domani con Fabio Tavelli, questa è una nuova tendenza che si sta affacciando, ma forse già anche consolidando nel resto d'Europa. Per il momento oggi restiamo noi ai vostri commenti, che arriveranno come sempre all'800 24 00 24, e ai commenti a questa giornata che è caduta alla vigilia del ritorno in campo delle coppe. Si ricomincia domani con Roma-Clujì, con Ajax-Milan, poi toccherà mercoledì all'Inter in casa con il Werder Brema, e giovedì il turno di Europa League con la sfida principale certamente a Manchester con il City di Mancini, che alla vigilia di Inter-Juventus riceve proprio la Juventus. Parleremo in particolare di Inter tra poco con Fabio Monti del Corriere della Sera. Nel frattempo cominciamo, mentre voi vi prenotate i vostri interventi, cominciamo con il riassunto vocale di una giornata che nel segno dell'equilibrio e dei continui rimescolamenti in vetta, il Chievo, poi il Cesena e poi il Brescia, adesso è arrivata la Lazio. Sentiamo, dopo la vittoria sul campo del Chievo, sentiamo Reia. Considerando tutto, io sono arrivato che eravamo penultimi in classifica l'anno scorso e non vorrei che ci si esaltasse oltre misura. I ragazzi hanno una coscienza sicuramente di essere una buona squadra, però come l'ho detto altre volte siamo appena all'inizio, stiamo facendo molto bene. Nel primo tempo abbiamo avuto un 3-4 opportunità, un po' più di cattiveria in fase offensiva, quando capitano quelle palle una squadra in certa maturità le mette dentro, che poi vai a rischiare, però non più di tanto, perché Muslera penso oggi non avrà toccato 2 palle. Sul piano difensivo abbiamo fatto una grande prestazione, e anche da metà campo in avanti, attaccando gli spazi, è una squadra che sta acquisendo una certa maturità sotto questo punto di vista. Però andiamo piano ad esaltarci, perché è il cammino ancora lungo, e andiamo avanti così, giornata dopo giornata, poi vedremo. Beh, credo sia la filosofia d'obbligo in un campionato così equilibrato. Fabrizio Fanton segnala che a Chiavari, in provincia di Genova, il segnale è disturbato. Davide D'Alba trasmette gli auguri di buon compleanno a Enzo Bearzot, ben sapendo che li ha compiuti ieri, ma insomma oggi era l'occasione per farglieli. Ho provveduto ieri io, Davide, anche a nome di tutto il popolo di ascoltatori e di fedelissimi di Radio 24. Roby Dallari da Milano scrive: non sono d'accordo con lei, la notizia del giorno è l'aggressione al portiere del Gubbio alla faccia della tessera del tifoso. Quello che è accaduto ieri ad Alessandria in effetti è dal mio punto di vista spaventoso, perché stiamo parlando di una città civile, di una città che ha molte radici calcistiche e sportive, che ha grandi tradizioni, e il fatto che un ragazzo di 21 anni che esce dallo stadio saluta i suoi compagni sul pullman e poi scende e si avvia in compagnia dei suoi genitori all'auto e viene circondato e massacrato di botte da una dozzina, 10, 12 circa teppisti, è assolutamente, se ci si fa mente locale, è discretamente sconvolgente. Purtroppo invece, non dico sia la norma, ma è una cosa che ormai può accadere in qualsiasi istante, a qualsiasi latitudine, e questo la dice molto lunga su come si è ridotto il non il calcio in Italia, ma il coté calcistico italiano, e quanto e quanto ben altro ci vorrebbe rispetto alla famosa o famigerata, fate voi, tessera del tifoso. Il fatto di ieri sera indubbiamente è questa tripletta del biondino Ricrasic, che è sino a qui l'acquisto più indovinato della Juventus. Poi parleremo di Juventus e di Inter un pochino più in dettaglio, perché non c'è dubbio che il contrasto tra, se parliamo di Juve, il contrasto tra il miglior attacco della Serie A con 12 gol e la peggior difesa con 9 alla pari con Roma e Udinese, beh, insomma, sia un contrasto non da poco. Sentiamo sul conto di Krasic il giudizio del suo compagno di squadra Chiellini. Milos ha caratteristiche un po' diverse, poi questa capigliatura lo fa paragonare a Pavel, però sicuramente sarà un giocatore importante di questa Juve. Si è integrato subito alla grande, al di là di ogni più rosea aspettativa, e speriamo continui così, perché sta facendo davvero la differenza, gol a parte. Come abbiamo detto tutti all'inizio anno, c'è da lavorare tanto, e purtroppo all'inizio, quando cambi tanto, del qualche incidente di percorso ci sta, però siamo un gran gruppo e possiamo far molto bene se mettiamo quell'attenzione e quella cattiveria che abbiamo messo anche oggi. Buona la giornata arbitrale, questo è giusto segnalarlo. Lunedì scorso avevo chiamato il decano Casarin al capezzale degli arbitri, insomma, della questione arbitrale, perché erano stati commessi errori di rara gravità anche da arbitri di grande qualità come Rizzoli. Qualcosa di molto negativo era continuato mercoledì. Ieri mi pare che, con il solo errore, direi errore vero, di un rigore regalato al Napoli, insomma, tutto il resto, sul resto del fronte, anticipi, posticipi, pomeriggio, si è filato liscio. E questo va segnalato e va ricordato, perché la stagione arbitrale è cominciata male, ma male anche per, diciamo, l'eccesso di attenzioni, no? Che da parte delle società, soprattutto quelle abituate a condizionare, c'erano state fin dai primi fotogrammi del campionato. Il primo intervallo di oggi, come sempre, per le strade. Qualche altra piccola curiosità sortita. Per esempio, nella stagione scorsa Vucinic era stato l'uomo decisivo per la Roma, perché ha portato in dote ben 19 punti alla classifica romanista. Bene, la Roma, dopo l'avvio disastroso che ha avuto, i primi 3 punti, o 2 se vogliamo, visto che stava pareggiando, comunque li ha di nuovo avuti in dote da una prodezza, da una grande prodezza di Vucinic. La Lazio è in compenso alla cooperativa del gol, perché hanno segnato 7 giocatori diversi per questo primato in classifica, che non condivideva con l'Inter dalla quarta giornata 99-2000, questa è un'altra curiosità. Erano 11 anni che non c'era una classifica in testa delineata con le stesse due formazioni di adesso. Dopodiché l'ultima tripletta di uno straniero della Juventus, prima di quella di ieri sera di Krasic, era di Ibrahimovic nell'aprile 2005 contro il Lecce. Massimo è in linea da Cagliari, buongiorno. Salve, buongiorno signor Garanzini. Niente, volevo fare una considerazione sull'Inter. Mi pare che manca un pochino la carica agonistica che, diciamo, dava Mourinho alla squadra. E poi le volevo chiedere, secondo lei un giocatore come Balotelli non avrebbe fatto ancora comodo a questa squadra? La ringrazio e l'ascolto per radio. Grazie. Ma dunque, Balotelli avrebbe fatto comodo se fosse stato sano. In questo momento farebbe, cioè, se fosse stato sano, nel senso che non è che sia malato, intendiamoci, però ha avuto un infortunio serio, e così come non riesce a rendersi utile al City, non si sarebbe evidentemente reso utile neanche all'Inter in questa fase. Quanto alla, lei ha detto, la carica o la condizione di Mourinho, ma io credo che l'eccezionalità dell'impresa dell'Inter dello scorso anno sia stata una delle ragioni, forse la principale, che ha indotto Mourinho a guadagnare l'uscita, no? come avrebbe detto tanti anni fa Maurizio Costanzo. Credo, perlomeno, mi pare di aver capito qualcosa di questo genere. Ed è indubbio che, come in ogni situazione di quel genere, cioè ad un grande trionfo poi corrispondono le conseguenze, che quasi mai sono positive, comunque, che comportano degli strascichi. Ne chiedo conto al massimo interologo vivente, che dal Corriere della Sera è Fabio Monti. Buongiorno Fabio. Buongiorno, ma non non esageriamo. Non esageriamo, va bene. Tu stamane il titolo del tuo servizio dice: Inter stanca e nervosa, i conti non tornano e il futuro resta incerto. Lo sfogo di Chivu, sintomo di un malessere, e poi ricordi che quello che Chivu ha cantato in faccia a Benitez nel corso della partita, in una brevissima pausa di partita, resta, tu scrivi, un inedito incredibile, perché in effetti una roba del genere non si era mai vista a quel livello. Ma sì, non sono, io non me la ricordo, ma non solo nell'Inter, in generale. No, no, certo. Mi sembra, si vede che la squadra è un po' sul nervo, insomma. Ecco, ma la squadra sul nervo, per esempio, questo ascoltatore, ma non è l'unico, è un ascoltatore campione, sostiene che da un grande gestore di uomini si è passati, da un grande gestore di uomini che però, come dire, sapeva sviare le attenzioni, sapeva attirare su di sé, sapeva, insomma, conosciamo la tattica, no, comunicativa di Mourinho, si è arrivati invece ad un signore che probabilmente dal punto di vista tecnico, almeno secondo me, è più bravo, però che da un punto di vista gestionale si trova ad ereditare una situazione oggettivamente difficile. È da lì che nascono i problemi? Sì, credo di sì. Guarda, sulla bravura di Benitez io penso che non ci siano dubbi, insomma, ecco. E che forse tecnicamente e tatticamente sia anche meglio di Mourinho. Però mi pare che è arrivato in un momento in cui tante cose sono confluite insieme e tante cose che non aiutano. Intanto il fatto che sono reduci da un'annata strepitosa, d'altra parte se è un caso unico nella storia, se è come un grande record, non è che lo si fa tutti i giorni, se no è un grande record, insomma. Certo. Ecco. Poi anche questo fatto, l'idea di voler conservare la rosa nella sua totalità, forse serviva un rinnovamento già quest'anno, però non era facile cambiare gli uomini che avevano vinto tanto, al di là delle necessità di bilancio che erano probabilmente inderogabili. Un po' mi pare un po' tutte queste cose sono arrivate insieme e Benitez in questo momento mi sembra un po' stritolato in mezzo. Certo, anche perché le cose non è solo scrivi tu e ricordi tu e segnali tu, non è solo lo sfogo di Chivu, per incredibile che sia, e ovviamente è quello che va in copertina, però tu racconti di Sneijder e di qualche rimprovero in campo ai compagni, scrivi della serata tatticamente frivola di Eto'o, e condivido in pieno l'osservazione, Cambiasso che doveva fare il lavoro di due, insomma c'è qualche segnale di frizione anche interna al gruppo, mi pare di capire. Sì, secondo me è solo un fatto legato ai risultati, come sai tu meglio di me. Sì. Le squadre sono tenute insieme soltanto dalle vittorie, tutte le amicizie sono tutte storie che si raccontano. Sì. Io mi ricordo che quello che non si diceva nell'Inter nel 2006, perché aveva perso lo scudetto, poi due mesi dopo, siccome era venuta fuori Calciopoli eccetera, l'Inter ripartiva da campione, aveva inanellato quella serie di vittorie, gli stessi uomini erano compatti, amici, si volevano bene, non so che cosa avrebbero fatto insieme, quindi secondo me il problema non è, diciamo, di clan, di situazioni particolari interne, è proprio che questa difficoltà di arrivare alla vittoria rende tutti un po' più nervosi e un po' più agitati, insomma. E questo è il primo problema che tu segnali, però ne ricordi altri due, sia pure in questo momento meno in evidenza, ma hanno e rischierebbero di avere anche un maggior peso. Uno è una rosa non ricchissima, soprattutto in avanti, l'altro soprattutto è che comincia a esserci qualche scricchiolio fisico da parte di qualcuno, a cominciare da Milito, per esempio. E insomma, d'altra parte, Milito ha fatto l'anno che ha fatto, ha segnato, sì, tutti i gol che ha segnato, in più è andato al mondiale, e storicamente mi sembra che il mondiale lasci delle conseguenze veramente forti. Mi ricordo che i primi sei mesi di Juventus dopo il mondiale dell'82 erano stati sei mesi veramente molto difficili per Trapattoni, cioè, la squadra era spremuta. Adesso Milito non ha vinto il mondiale come invece gli azzurri nell'82, però comunque è sempre una competizione che ti asciuga e ti prosciuga. Indubbiamente, condizione difficile, complessiva, però in questi momenti probabilmente, correggimi se sbaglio, quello che ci vuole è un avversario forte da affrontare. Ora, dopo il Werder Brema di mercoledì sera a San Siro, che in questo momento è un ostacolo, insomma, non proprio di quelli più elevati, credo che Inter-Juve da questo punto di vista arrivi al momento giusto per risollecitare la squadra. Ma io credo che la squadra complessivamente abbia voglia. è che forse è un momento in cui mancano un po' le forze e manca un po' l'ottimismo, anche se le ultime due partite erano andate bene, insomma. Mi pare che la squadra avrebbe bisogno di qualcosina in più che in questo momento manca. Oggettivo, dato oggettivo. Grazie Fabio. Grazie a voi. Chiudiamo il collegamento con Fabio Monti e con il Corriere della Sera. Ci sono due messaggi consecutivi. Michele da Turi mi scrive: cosa vogliamo dire al signor Mazzari dopo le dichiarazioni di ieri del post partita? E Gianluca da Pordenone mi evita di rispondere io, perché io ci metto soltanto la firma sotto quello che risponde lui. Non so se ne avete già parlato, scrive per l'appunto Gianluca da Pordenone. Ma vorrei un commento sulle solite farneticazioni di Mazzarri. Espulso per protesta gol del Cesena a torto e ancor peggio la dichiarazione della validità del rigore concesso al Napoli. Con persone come queste il calcio andrà sempre peggio. Gianluca, io non dal punto di vista tecnico o tattico, ma dal punto di vista comportamentale ed etico, certamente sì, sottoscrivo quello che lei dice e che peraltro riguardando Mazzarri non è assolutamente inedito. Torniamo alle voci da ascoltare, oltre che anche le vostre, evidentemente. Se c'è un ascoltatore già collegato, gli diamo la precedenza. E se no, dato che non lo vedo ancora sul display, e se no, ci sentiamo. Ed è Jerry da Brescia. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo chiedere un suo parere. Non sarebbe meglio per l'Inter quest'anno puntare, visto un po' l'appagamento di quello che abbiamo ottenuto l'anno scorso, puntare sui giovani? Io comincio a pensare a Mariga, farlo giocare di più, a Biabiani, anche lo stesso Obi che non ho ancora visto. Non sarebbe una cosa utile, visto che l'anno scorso abbiamo fatto il pieno, magari quest'anno essere un po' più tranquilli e giocare, puntare sui giovani? Grazie. Sì, poi quando lei abbia ben puntato sui giovani e sia uscito ai quarti o agli ottavi di Coppa, sia arrivato quarto in campionato e magari fuori dalla Coppa Italia, poi voglio vedere come la prendono i tifosi dell'Inter e magari lei stesso. Io credo che il rinnovamento forse ci voleva prima. Mi pare che lei ha citato Mariga di spazio ne ha avuto, poi volontariamente o involontariamente, cioè nel senso di infortuni, comunque ne ha avuto abbastanza tanto. Se l'usura nel reparto d'attacco va avanti da sta maniera, io credo che presto ci sarà parecchio più spazio per Coutinho, che mi sembra uno di quelli molto interessanti da vedere, e quindi credo che alla fine un po' di ribalta ci sarà per forza, in attesa di vedere poi se la società farà o meno operazioni sul mercato di gennaio. Roby da Brescia scrive: anche il Brescia ha segnato con 6 calciatori diversi, ma noi siamo piccoli e non meritiamo di essere citati, vero Garanzini? Guardi, dal mio punto di vista non è certamente la grande la Lazio, era semplicemente che la Lazio era 7 e quindi abbiamo citato quella, e il Brescia con 6 no, sono ben lieto di citarla, invece anche perché, no, questa non la dico, dove meriterebbe di essere a Lazio dopo Lazio-Inter dell'altro anno, secondo me, in che categoria? Me la risparmio almeno per il momento. Torniamo dopo l'aggiornamento dei mercati. Il Napoli, che giovedì gioca in Coppa, in Europa League, contro la Steaua Bucarest, si troverà di fronte in panchina una vecchia conoscenza del calcio italiano, fiorentina in particolare, che è Marius Lacatus, che era l'ala destra della grande Steaua di Bucarest, campione d'Europa alla metà degli anni 80, in una storica finale, mi pare contro il Barcellona. Tocca a Giuseppe da Palermo, buongiorno. Buongiorno Antonio Garanzini, io la ringrazio per la vostra trasmissione. Sì. Le volevo dire questo: io ho visto sia la partita Palermo-Inter e il cattivo, pessimo arbitraggio di Romeo, sia quella di ieri Palermo-Lecce e l'altrettanto brutto arbitraggio di Bergonzi. Ora, dato che io penso che in questi casi non si possa fare una polemica perché c'è la squadra grande contro la squadra piccola, perché per esempio ieri con Lecce questo non c'era, no? Io temo che sia proprio, per esempio nel caso di Bergonzi e dei suoi collaboratori, un problema di pessima preparazione. Io penso che ci sono stati un sacco di fuorigioco segnalati erroneamente. Sì, ma non, quando io ho detto che la giornata arbitrale era andata meglio delle precedenti, non intendevo dire che tutto era andato perfettamente. Nulla andrà mai perfettamente, dovendosi contemplare in una direzione di gara anche l'inevitabile errore umano che appartiene all'arbitro, appartiene al giocatore, all'allenatore, al tifoso. Io credo però che nel suo giudizio ci sia un tantinello di aspettativa da tifoso, insomma, no? E lo dico, mi raccomando, senza offesa, insomma, perché c'erano state molte discussioni sull'arbitraggio di Palermo-Inter. Ieri mi sembra che ce ne sia state molto meno, possono esserci state appunto delle imperfezioni, ma che ieri una delle due squadre, segnatamente il Palermo, quanto sta dicendo lei, si possa lamentare o possa imputare delle responsabilità arbitrali sul risultato, cioè, ci vuole la faccia di Mazzarri, secondo me, per sostenere queste tesi. Ma dato che Mazzarri è altrove, al momento credo che mi pare che Rossi, per esempio, sia ben diversamente signore, e mi pare anche che da parte palermitana non ci siano state fortunatamente rimostranze. C'era un messaggio interessante che era arrivato a proposito di Inter prima e delle riflessioni che si facevano e che faceva in particolare Fabio Monti. L'errore più grande, scrive Paolo da Prato, che ha fatto l'Inter dopo quella stagione trionfale è stato non vendere Maicon e Milito, in modo da monetizzare e cominciare un graduale rinnovamento. Beh, questa è probabilmente stato un errore, ma non era facile però vendere Maicon e Milito. Maicon in particolare, Milito ovviamente ha avuto un avvio di stagione difficile. Quello di Maicon sta passando un po' più inosservato, però io credo che se si riesamina anche la sequenza del gol decisivo di Vucinic dell'altra sera, insomma, ci si renda conto che anche Maicon qualcosina in più potrebbe fare, forse un po' di testolina di capino a Madrid può darsi che per il momento ce l'abbia ancora, poi un giorno magari farà mente locale, che invece è rimasto davvero a Milano. Massimiliano ha chiamato dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, io volevo fare una considerazione sul Milan. Ho sentito poco tempo fa Galeone esprimere perplessità sul fatto di Pirlo che debba ancora giocare nel centrocampo del Milan. Mi sorge una domanda. Con Boateng, Flamini e chi per esso poi all'interno del centrocampo del Milan, le azioni che le conclude, se non dovesse esserci più Pirlo? Visto che in questo momento, se noi togliamo Pirlo dal Milan, vedi anche l'ultima partita, Pirlo ha fatto far gol a Ibrahimovic, nella bravura di Ibrahimovic, e poi buttare dentro il pallone. Sì, allora un bel lancio, scusi, facciamo 33% secondo me, 33 il magnifico lancio di Pirlo, 33 l'intuizione di Ibra, 33 il portiere che sta prendendo il fresco fuori porta e non si capisce perché, mi pare. Sì, beh, però comunque vada, Pirlo ha illuminato. Dal niente ha creato un'occasione da gol. Ma non c'è dubbio, se l'ha creata lui se stesso, perché è complicità del portiere sicuramente. Perché al 47, avesse avuto anche solo il 45, non credo che riusciva. E che sarebbe riuscito in quell'allungo, no? Perché lì ci vuole anche. Comunque, adesso al di là di questo, io non vorrei passare per un avversario di Pirlo, lei si sta riferendo a Galeone e siamo d'accordo. Io credo di aver capito e di ricordare da quella tesi di quel giorno che più sono gli artisti schierati in avanti e più al gioco devono pensare loro, no? E quelli che stanno dietro a loro devono pensare invece a distruggerlo, cioè, nel senso a distruggere quello degli avversari, quindi a coprire, a fare i gregari rispetto a questi quattro, sosteneva Galeone, che se la giocano tra loro. È una tesi. Lui sosteneva che questo ha un senso se tra i centrocampisti che stanno dietro, diciamo, ai creativi, non ce n'è uno a sua volta creativo attraverso cui debba transitare il gioco. È una tesi che secondo me è più che rispettabile, anche se poi è teorica. Lei mi dice che Pirlo illumina e sono d'accordo con lei. Pirlo è un giocatore che non da oggi illumina. Nella fattispecie di questa via di stagione mi sembra che sia stata la prima illuminazione però di Pirlo, dopo una serie di partite non proprio trascendentali. Francesco, provincia di Lecce, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Dica. Senta, io sono un vecchio tifoso dell'Inter, uno di quelli che quando l'Inter non vinceva lottava anche con i suoi stessi tifosi interisti rassegnati a dare solo colpe a Moratti per gli insuccessi, quando invece si intuiva cosa c'era dietro ma non si poteva dimostrare. Io credo che quest'anno, dopo un'annata fantastica che è stata quella dello scorso anno, dopo aver vinto cinque titoli consecutivi. Io credo che se quattro più uno a tavolino revocabile, diciamo che non voglio dire nient'altro, 4 più 1, va bene. Se quest'anno l'Inter non vincesse il titolo, voglio dire, prima o poi si deve fermare, non è che possiamo vincere il titolo ogni anno, non è, cioè sarebbe antipatico vincerlo ogni anno, quindi per succedere quest'anno fa niente, mi dispiacerebbe solo se lo vincesse il Milan, però l'Inter non pretendo che vinca di nuovo il titolo, certamente quest'anno il mio tifo è concentrato esclusivamente alla Champions e speriamo di fare qualcosa, quindi non mi meraviglierei se quest'anno in campionato non facciamo nulla. Un piccolo errore a Moratti, lo vorrei insomma sottolineare, un piccolo errore di Moratti, di non vendere Milito, perché ormai a 30 anni era all'apice, era della popolarità, avrebbe monetizzato bene, insomma, quindi adesso si trova un giocatore un po' scarico mentalmente, insomma, un po' appagato. Va bene, okay, lui che è okay. Grazie Francesco. Torniamo torniamo a sentire invece dei contributi che arrivano dalle varie sedi. Per esempio, insomma, si è parlato molto della. No, prima abbiamo parlato della polemica inedita di Chivu nei confronti non tanto di Benitez, ma dei suoi compagni, di quella sceneggiata a fine primo tempo di Chivu. Poi ce n'è stata un'altra all'Olimpico ed è stata la sceneggiata molto più composta, molto più garbata, se vogliamo, però certamente non educativa, perché un capitano non se ne va a quella maniera e non fregandosene di come finisce una partita di quell'importanza. Visto che oggi sta compiendo gli anni Totti, sentiamo 34 anni, sentiamo se Ranieri per caso, parlando di scelte d'attacco, parla anche di lui. Allora, ricordatevi, le difficoltà l'allenatore non ce l'ha, ce l'hanno i giocatori, o lo capiscono o non lo capiscono, ma l'allenatore poi decide e sceglie. Non ci sono le difficoltà, un allenatore ce l'ha quando non ha i giocatori disponibili, pronti, in forma, o non ha addirittura giocatori. Lì l'allenatore è in difficoltà. Quando ce n'ha tanti, sono bravi e tutti, che difficoltà c'ha? Che se sbaglia, sbaglia di un 5% invece di mettere Tizio, mettere Caio. Le difficoltà ce l'hanno i giocatori, che devono capire questo e devono pensare che l'allenatore fa le scelte soltanto per il bene della squadra. Sì, sembra perfino banalità quelle di Ranieri, però ogni tanto bisogna ripassarle anche a gente come Totti, che insomma a 34 anni d'età forse dovrebbe averle capite. Poi in un'altra sede Ranieri ha aggiunto: non penso di gestire Totti all'alta fini. Punto su di lui al 100%, anzi oltre. Sia con lui che con Adriano è andato tutto tranquillamente. Al nostro ritorno a Trigoria è come doveva andare. Sono ragazzi intelligenti, come spero anche l'allenatore. Massimiliano ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Io sono un tifoso della Juventus. Volevo il suo parere su due cose velocissime. La prima è se io sto provando a cercare la risposta, ma non la riesco a trovare da solo, il motivo per cui la Juventus ha venduto Diego per prendere poi Quagliarella, quando alla fine secondo me due punte alte le avevamo e Diego gli si poteva insegnare a fare la seconda punta, cosa che sta facendo in Germania anche molto bene, anche perché non mi sembra che quei soldi li abbiamo utilizzati per qualche acquisto clamoroso. L'altra cosa che volevo sapere un suo parere, la Juventus l'anno scorso le tonnellate di sconfitte e gol che ha preso sono state date principalmente da due giocatori di fascia difensivi inguardabili e il primo rinforzo che era da fare la Juventus erano i due terzini di difesa, perché nel calcio moderno gli attacchi degli avversari arrivano dalle fasce, anche quest'anno. Beh. Arrivano dalle fasce e arrivano dal centro. La Juventus ha cambiato tanto quest'anno. Io continuo a pensare che abbia forse cambiato un po' troppo anche, ma sono scoperte che si fanno poco alla volta. Massimiliano, siamo andati un po' oltre con i tempi, dobbiamo sentire come va sulle strade. Secondo me, scrive Gianluca da Pordenone, all'Inter è mancato tanto Zanetti sabato sera. Questo non cambia i problemi della squadra, ma senza il gol di Vucinic sentiremmo altri discorsi. Ma insomma, Gianluca, io credo che la prima mezz'ora dell'Inter sabato sera all'Olimpico sia stata di assoluto livello. Per mezz'ora li hanno presi a pallate, no? Letteralmente. E come la porta della Roma fosse inviolata, come si diceva una volta. Dopo quella mezz'ora abbastanza del misterioso. Poi un po' alla volta, io credo sia stata anche brava la Roma a rientrare, ad entrare in partita, anzi nella fattispecie a entrare in campionato, perché fino adesso in campionato non c'era stata sto granché. Ha preso fiducia. Da lì alla fine c'è stato grande equilibrio, poteva segnare l'una, l'altra, poteva non segnare nessuna, e a un certo punto è arrivata una prodezza combinata, perché la palla, il tuffo di Vucinic in anticipo e in corsa con la torsione è splendido, ma non era molto da meno la palla di De Rossi nello spazio, avendo visto l'intenzione di taglio di Vucinic, perché se lei nota al rallentatore quando De Rossi alza la testa e si predispone a caricare il destro, Vucinic è ancora, diciamo, a 10-12 metri dal punto in cui poi arriva a impattare la palla e a girare da quella maniera. Ha segnato un gol in tuffo di testa che mi ha ricordato un grande giocatore del passato. Su questo grande giocatore del passato adesso sentiamo per pura combinazione una testimonianza all'interno di Nicola Filippone, all'interno di Sembra Ieri. Sembra ieri. 27 settembre 1970. Prima giornata di campionato. La Juventus, allenata da Armando Picchi, espugna il Cibali battendo 1-0 il Catania. Il gol partita porta la firma di un debuttante in Serie A, il giovane attaccante Roberto Bettega, appena rientrato da un prestito al Varese, dove, sotto la guida tecnica di Nils Lidholm, aveva contribuito con 13 reti alla promozione in Serie A. Nelle sue 13 stagioni alla Juventus, Bettega metterà a segno 178 gol, di cui 129 in campionato. È il terzo miglior marcatore di sempre in maglia bianconera, dopo Del Piero e Boniperti. Sì, non solo Bettega ha avuto in gioventù una serie di, soprattutto un grave incidente di percorso di salute, e accadde pochi mesi dopo proprio quel debutto che Nicola Filippone ha ricordato. Accadde alla fine del girone d'andata di quell'anno, 70-71, quando era capocannoniere, tra l'altro, e quindi credo che la sua carriera sarebbe stata ancora più bella, probabilmente più longeva di quanto non sia stato. Lo stesso 27 settembre 80, mi segnala Nicola Filippone, ci sono altri due anniversari. Uno è Marvin Hagler, che diventa campione del mondo dei medi battendo a Londra Alan Minter, e poi resterà campione per 6 anni. L'altra, molto più mesta, è che il 27 settembre 84 morì a Milano Nicolò Carosio. Tocca a Gianluca da Grosseto, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, intanto dica. Complimenti per i 50-55 minuti di equilibrato calcio. Equilibrato perché tanto solamente i suoi sono 50 minuti di equilibrati commenti. 50 lordi, perché se ci mettiamo le pubblicità, allora, vabbè, capito? Cioè, ci vorrebbe recupero anche qua, e vabbè, esatto. Ma adesso, infatti, scherzo. Le chiedo di allargare la sua fascia, se fosse possibile. Volevo solamente tranquillizzare i tifosi dell'Inter. State tranquilli, sabato è stato 1-0 mascherato da 1-0, perché se non ci fosse stato uno dei tanti gol impossibili di Vucinic, che fa solo quelli impossibili, sarebbe stato un tranquillissimo 0-0, noi fuori dal campionato e loro padroni del campionato. La lascio con questa considerazione. grazie Gianluca. Sì, ma infatti è stata, sono d'accordo con lei, è stata una prudenza quando ormai la partita era non spenta, per carità, perché però era, insomma, incanalata, no, mi sembra. Roberto da Roma mi scrive: ha visto il gol della Roma rallentatore, allora lei usa la moviola. Sarà lei che la usa la moviola. E anche io ho visto delle sequenze rallentatore su questo gol, che mi sembrano in questo caso un arricchimento, perché quello non è il guardonismo per andare a vedere come, no, come era piazzato l'arbitro, cosa insomma, per andare a pescare nel torbido. In questo caso era incidentalmente usata per mostrare invece qualcosa di bello, cioè di costruttivo, di movimenti perfetti da parte di chi attaccava e imperfetti da parte di chi difendeva. Se la moviola fosse stata usata sempre così, non sarebbe, insomma, non avrebbe fatto la fine miseranda che ha fatto la moviola in Italia. Romeo ha chiamato da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io devo fare due osservazioni. Le faccio. Non capisco come mai si parla così po' della Fiorentina. Allora, partita con la Lazio, gol non buono dato alla Lazio, a Lecce ci annullano una rete buona e non ne parla nessuno. Ha fatto una trasmissione sulla Roma per una svista arbitrale. Sì. Gli hanno, non gli hanno anche regalato un rigore l'ultima volta in casa la Fiorentina? Sì. Sì. Ma di Eto se ne è parlato, eh? Non si è parlato dei danni della Fiorentina. Quando c'ha un favore se ne parla. Non capisco perché. Grazie. Romeo, non la so rispondere. Io da parte mia le garantisco che non faccio parte dei congiurati, dei grembiulini che c'erano con la Fiorentina, no? Ammesso che ce ne siano, evidentemente. Segnalerei che anche questa è una battuta, perché poi c'è qualcuno che è sempre pronto a prendere sul serio. Non le so dire. Io ho parlato in questa stagione fino adesso soltanto una volta di questione arbitrale, ne ho parlato con Paolo Casarin, quindi mi pare con uno che di arbitri e di questione arbitrale se ne intende discretamente. Quando ho visto dei casi limite, i casi limite erano quelli della scorsa settimana con un arbitraggio davvero inverecondo a Brescia per Brescia-Roma, e non a caso l'arbitro è stato sospeso, e con due casi che hanno portato alla sospensione di altri due arbitri nella scorsa domenica. Il resto fa parte della routine. Lei, come tanti fiorentini, per routine intende la routine persecutoria dei danni della Fiorentina. Io sinceramente non so che farci. Marco da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Premetto che sicuramente fra sei mesi tutto andrà come deve andare, ma guardando i giornali di oggi a me fa piacere vedere in tutte le classifiche in Europa, tolta l'Inter in Italia, la Lazio, il Chievo, il Brescia nelle prime posizioni, ma anche in Francia, Germania, Inghilterra, cioè in Inghilterra abbiamo sempre Chelsea, ma in Germania Mainz, Borussia, Saint-Étienne, Rennes, Tolosa, cioè è possibile che anche il Valencia in Spagna si paghi l'anno del mondiale, quindi le big partono un po' a rallentatore, però magari anche la crisi ha aiutato alle squadre minori, cosiddette minori, a fare scelte oculate sul mercato e probabilmente a essere anche un filo più competitivi, perché io trovo che comunque ci sia una sorta di allineamento dei valori, escluse una, due squadre barra tre a campionato, ma anche in Italia, io sono tifoso juventino, mi fa piacere vedere tanti giovani anche italiani che devono crescere, devo dire soffriremo un po', però comunque è bello un filo di appiattimento dei valori, c'è più competitività. Cioè, aspetto la risposta, grazie. La risposta è solennemente affermativa, perché non a caso da alcuni anni a questa parte il campionato più emozionante da seguire in Europa è la Bundesliga, in cui vince ogni tanto vince certamente più degli altri il Bayern di Monaco, ma in cui anche quando vince deve giocarselo fino all'ultima partita, e tra quelle e tra le altre che vincono sono davvero tante le alternative possibili, quest'anno col Magonza come nelle scorse stagioni. Giulio, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Salve Granzini. Ascolti, io tornavo su una cosa per la quale ho anche scritto. Dicevo semplicemente, il discorso di Mazzarri-Napoli, io faccio l'arbitro di calcio, sì. Non voglio parlare contro un tesserato, ma voglio solo fare una considerazione. Quando arbitro una categoria delle mie, che sono molto inferiori alla Serie A, lascio immaginare, e quando un calciatore rimane senza allenatore che crea polemica contro tutto e tutti sempre, quasi mi ringrazia talvolta. Tutto qua, ecco. grazie Giulio. Abbiamo esaurito la scorta di tempo anche oggi, non c'è recupero, l'arbitro non l'ha dato, sicché grazie a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio a tutti. Tempo di sport.